you want me, you can find me left of center off of the strip. In the outskirts and in the fringes, in the corner out of the grip. Un paio di settimane fa è uscito sull'Internazionale un articolo dal titolo Con la coscienza a posto. L'Internazionale traduce articoli della stampa internazionale, appunto. Questo è un articolo scritto da Peggy Orenstein, che è una giornalista e scrittrice, ed è stato pubblicato sul New York Times Magazine negli Stati Uniti. L'articolo parla della prevenzione del tumore al seno e in particolare della mammografia. La questione che indaga la giornalista, la Peggy Orenstein, è proprio se la mammografia è davvero l'arma più efficace nella battaglia contro il cancro al seno. Le donne che ne muoiono sono diminuite, le donne sono sempre più consapevoli dell'importanza della diagnosi precoce, ma appunto la mammografia, la diagnosi precoce, è veramente utile nella lotta contro il tumore al seno? Quest'articolo è una denuncia dei rischi legati all'eccessiva prevenzione e l'articolo è un articolo che ha fatto abbastanza discutere negli Stati Uniti e arriva fino a noi. Ne andiamo a leggere una parte consistente e poi continueremo questo breve spazio di approfondimento raccontando, approfondendo le questioni legate all'uso, alla scelta di se fare o no una mammografia come appunto diagnosi del tumore al seno, prendendo le riflessioni e i consigli anche di Susan Weed, che è una erborista femminista statunitense che ha scritto un libro molto bello che si chiama Breast Cancer, Breath Health, ovvero tumore al seno, salute del seno. Ma iniziamo con l'articolo di Peggy Orenstein. Un tempo credevo che una mammografia mi avrebbe salvato la vita. L'ho perfino scritto sulle pagine di questa rivista. Era il 1996, avevo appena compiuto 35 anni e il mio medico mi mandò a fare il primo screening. Sarebbe servita come riferimento quando, a 40 anni, avrei cominciato a sottopormi a una mammografia ogni anno. Nella mia famiglia non c'erano precedenti di tumori al seno e non c'erano particolari fattori di rischio. Perciò, quando il radiologo trovò sulla lastra uno strano segno simile ai raggi di una bicicletta, non era neanche un nodulo, e mi mandò a fare una biopsia, non mi preoccupai. Dopotutto, chi aveva un tumore al seno a 35 anni? Proprio io. Ricordare la paura, la confusione, la rabbia e il dolore di quel momento mi fa ancora soffrire. La mia unica consolazione era che il sistema aveva funzionato. La mammografia aveva rilevato il tumore in tempo. Ero stata sottoposta ad una nodulectomia e a 6 settimane di radioterapia. Sarei sopravvissuta. Per coincidenza, una settimana dopo che la malattia mi era stata diagnosticata, una commissione di esperti del National Institute of Health era finita sulle prime pagine dei giornali perché si era rifiutata di raccomandare la mammografia per tutte le donne dai 40 ai 50 anni. Non c'erano prove a sostegno del fatto che la mammografia riducesse il numero di persone che morivano di cancro in quella fascia d'età. Inoltre, dato che i tessuti del loro seno erano più compatti, le donne più giovani rischiavano di ottenere falsi risultati positivi e quindi una serie di biopsie e preoccupazioni inutili, ma anche falsi risultati negativi. Quelle conclusioni mi colpirono come un pugno in faccia. Ufficialmente la mia vita non vale la pena di essere salvata, scrissi arrabbiata. Quando l'American Cancer Society e la Susan Komen Foundation respinsero le conclusioni della commissione dicendo che la mammografia era ancora lo strumento migliore per ridurre la mortalità del tumore alla mammella, i miei amici si congratularono con me, come se avessi ottenuto una vittoria personale. Mi consideravano un perfetto esempio dei vantaggi della diagnosi precoce. Ma a 16 anni di distanza ho cambiato idea. Anno dopo anno, mentre nuovi studi rivelavano i limiti della mammografia e i pericoli di interventi sproporzionati, un pensiero mi assillava. Le cose sarebbero andate diversamente senza quella mammografia? Cosa sarebbe cambiato se avessi scoperto la malattia qualche anno dopo? È difficile contestare un buon risultato. Dopotutto sono viva e grata di essere ancora qui. Non ho visto amiche morire, anche se il loro tumore era stato scoperto tempestivamente, e persone con cui ho condiviso l'angoscia di quelli che poi fortunatamente si sono rivelati falsi allarmi. Qualche tempo fa, da uno studio su 30 anni di screening pubblicato sul New England Journal of Medicine, è emerso che l'uso della mammografia produce risultati ambigui. Da una parte riduce di una piccola percentuale il numero di donne che scoprono di avere un tumore in stato avanzato, dall'altra è molto più probabile che provochi diagnosi allarmistiche e interventi inutili, anche chirurgici, settimane di radioterapia e prescrizione di farmaci tossici. Eppure, negli Stati Uniti, la mammografia resta il pilastro indiscusso delle campagne di prevenzione. Dovunque vada, al supermercato, in tintoria, in palestra, dal benzinaio, al cinema, all'aeroporto, dal fioraio, in banca, al centro commerciale, vedo manifesti che dichiarano che la diagnosi precoce è la migliore protezione e una mammografia ti salva la vita. Ma quante vite salva veramente? E in che modo? E a quale prezzo? Parlare pubblicamente di tumore alla mammella, una malattia alla quale un tempo si accennava solo sottovoce, all'inizio è stato importante quanto sottolineare i vantaggi della prevenzione, ma questa sempre maggiore consapevolezza ha avuto delle conseguenze impreviste e anche quelle conseguenze influiscono sulla salute delle donne. Il tumore alla mammella in sé non uccide, diventa letale quando metastatizza e si diffonde ad altri organi o alle ossa. La diagnosi precoce si basa sulla teoria, che risale alla fine dell'Ottocento, secondo la quale la malattia progredisce regolarmente, partendo da una singola cellula, diffondendosi in modo esponenziale e, a un certo punto, facendo immancabilmente un balzo in avanti. Per curarla, quindi, si pensava di dover individuare ed eliminare il tumore prima che cominciasse la metastasi. Ma non era dimostrato che le dimensioni di un tumore permettessero di capire se era diffuso. Secondo Robert Arnowitz, un professore di storia e sociologia della scienza dell'Università della Pennsylvania, i medici avevano appoggiato comunque questa idea anche perché volevano disperatamente crederci e fare qualcosa per fermare quella piaga contro la quale si sentivano impotenti. Così nel 1913 nasce l'American Cancer Society. Alla fine degli anni 30, un esercito di 100.000 volontarie in abiti color khaki era stato mobilitato e andava di porta in porta a raccogliere fondi per la causa. Dagli anni 80 poi, milioni di donne vestite in rosa partecipavano alla Race for the Cure, la corsa per la cura, e erano stati lanciati sul mercato tutta una serie di prodotti rosa, confezioni di pollo, yogurt, aspirapolveri, guinzagli per cani e così via. All'inizio degli anni 2000, circa il 70% delle donne sopra i 40 anni si sottoponeva ad un controllo annuale. La mammografia era diventata un rito quasi sacro, così importante che nel 2009, quando un altro gruppo di studiosi indipendenti, finanziati dal governo statunitense, affermò di nuovo che il controllo doveva essere fatto ogni 2 anni e a partire dai 50, le reazioni non fu di sollievo ma di rabbia. Dopo anni di bombardamento e di campagne sulla diagnosi precoce, le donne pensavano che la mammografia non servisse solo a scoprire il tumore, ma addirittura a prevenirlo. Mentre le donne statunitensi si sottoponevano in massa alla mammografia, la visione che avevano i ricercatori del carcinoma mammario e della diagnosi precoce stava cambiando. Ormai è chiaro che la malattia non si comporta sempre nello stesso modo, non è neanche un'unica malattia, esistono almeno 4 tipi di tumore alla mammella geneticamente distinti, hanno cause diverse e reagiscono in modo diverso ai trattamenti. Gilbert Welch insegna medicina al Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice e ha prodotto uno studio sul trattamento eccessivo come conseguenza della mammografia, pubblicato a novembre del 2012. Secondo i suoi calcoli, la quota di donne che ha tratto effettivamente un beneficio dall'aver scoperto il cancro grazie alla mammografia varia fra il 3 e il 13%. Se Welch ha ragione, ogni anno il test salva dalle 4.000 alle 18.000 donne negli Stati Uniti. Un numero significativo, soprattutto se siete una di loro, ma è meno significativo di quanto ci si potrebbe aspettare rispetto alle 138.000 donne alle quali il cancro viene diagnosticato ogni anno con la mammografia. Perché la diagnosi precoce non funziona in più casi? Sembra che la mammografia non sia lo strumento migliore per scoprire le forme più letali di tumore, come il tripo negativo, in una fase ancora curabile. Anche se il tumore viene individuato abbastanza presto, quando è ancora piccolo, spesso è comunque troppo tardi perché ha già metastatizzato. D'altra parte, la mammografia individua subito quei tumori che potrebbero essere curati anche se scoperti più tardi dalla donna o dalla sua ginecologa. E quelli che progrediscono più lentamente da non arrivare mai a metastatizzare. Per quanto possa sembrare improbabile, molti studi fanno pensare che circa un quarto dei tumori individuati con la mammografia sparisce da solo. Se i vantaggi dello screening sono stati sopravvalutati, dei suoi potenziali danni si parla molto poco. Noi ci fermiamo qui nella lettura di questo articolo e ci soffermiamo sui potenziali danni della mammografia di cui si parla poco. E lo facciamo prendendo un libro invece che parla proprio di questo. È un libro scritto da Susan Weed, che è una erborista, una femminista, una donna che segue il percorso delle donne sagge, The Wise Woman Way, che appunto ha scritto questo libro molto bello che si chiama Breast Cancer, Breast Health, tumore del seno, salute del seno. Il capitolo 5 è dedicato alla mammografia. Inizia così. Ne abbiamo bisogno? C'è sempre stato detto che fare regolarmente la mammografia è il modo per prenderci veramente cura di noi stesse. Ma la mammografia non previene il cancro al seno. Una mammografia è una radiografia e i raggi X causano il cancro. Gli annunci che promuovono regolari test mammografici sono pagati da chi fa profitto della loro ampia diffusione, accettazione ed uso, dalle industrie che producono i macchinari a quelle che producono le pellicole dei raggi X, passando ovviamente per le lobby farmaceutiche e mediche. La salute di chi trae beneficio da queste tecnologie? La salute delle donne o la salute delle aziende? Personalmente, Susan Weed, credo che il mio stile di vita anticancro farà diminuire il rischio che io muoia di cancro al seno in un modo che le mammografie regolari non faranno. Le mammografie sono radiografie. Una mammografia usa raggi radioattivi per vedere i tessuti del seno. Si sa che i raggi X causano danni al DNA delle cellule del seno. Al suo posto possono essere usate ecografie ed analisi non radioattive. Inoltre le mammografie sono inaccurate. Mammografie fatte con macchinari che hanno un basso valore di radiazioni sono più sicure, ma meno radiazioni equivale ad immagini più sfocate. Circa 8 su 10 mammografie positive sono dei falsi positivi, cioè una successiva biopsia non conferma la presenza di cancro. Inoltre, la metà dei tumori al seno delle donne sotto i 40 anni sono invisibili alle mammografie. Le mammografie non sostituiscono l'autoesame del seno. La maggior parte delle volte le donne si accorgono da sole di avere un cancro al seno, il 90% delle volte secondo uno studio inglese. L'autoesame mensile del seno o l'automassaggio del seno fornisce una diagnosi precoce in modo gratuito e sicuro, evitando i pericoli delle radiazioni e con maggior piacere rispetto alle mammografie annuali. La maggior parte dei tumori al seno, l'80%, crescono lentamente ed impiegano fra i 42 e i 300 giorni per raddoppiare. Una mammografia annuale può trovare questo tipo di cancro 8-16 mesi prima di quando può essere sentito con le mani, ma questa diagnosi precoce aumenta in modo poco significativo la già alta possibilità di sopravvivere ad un tumore a lenta crescita, non metastatizzato. Il 20% dei tumori al seno che crescono velocemente sono quelli più dannosi. Possono raddoppiare in 21 giorni, quindi un autoesame mensile è molto più efficace per trovare questi tumori aggressivi rispetto a una mammografia annuale. Un tumore che raddoppia in 21 giorni può essere visibile in una mammografia solo 6 settimane prima rispetto a quando può essere sentito al tatto. Anche se ti massaggi o ti esamini il seno solo ogni 2 mesi, puoi agire più efficacemente sulle masse a crescita veloce. Se ti affidi esclusivamente alle mammografie, il cancro può crescere per mesi senza venir diagnosticato. In uno studio su 60.000 diagnosi di tumore al seno negli Stati Uniti, 2/3 sono stati individuati dalle donne o dalle loro ginecologhe e più della metà di questi non erano visibili nelle mammografie. Le mammografie non sono sicure. Gli scienziati sono d'accordo nel dire che non c'è alcuna dose sicura di radiazioni. Il DNA delle cellule del seno viene più facilmente danneggiato anche da dosi molto piccole di radiazioni rispetto ai tessuti della tiroide o del midollo osseo. E più le cellule del seno sono giovani, più facilmente il loro DNA può essere danneggiato dalle radiazioni. La dose usuale di radiazione durante una mammografia con il miglior macchinario possibile va dallo 0,25 a un rad. Il rad è l'unità di misura della dose di radiazioni assorbite. Questo dato va moltiplicato per 4, ovviamente, ad ogni analisi mammografica, perché si fanno appunto 4 mammografie, due lati di ognuno dei due seni, il che significa appunto una dose di 1 a 4 rad. Con macchinari meno moderni la dose può essere 10 volte più alta. Rosalie Bertel, che è una delle autorità più degne di rispetto al mondo in materia di pericoli da radiazioni, sostiene che un rad aumenta di un punto percentuale il rischio di tumore al seno ed equivale ad un anno di invecchiamento naturale. Se una donna si sottopone ogni anno ad una mammografia dall'età di 55 ai 75 anni, riceverà minimo 20 rad di radiazioni. A paragone, le donne che sono sopravvissute alla bomba atomica di Hiroshima o Nagasaki avevano assorbito 35 rad. Anche se una forte dose di radiazioni può essere più nociva che molte piccole dosi, è importante ricordare che i danni da radiazioni si accumulano. Infine, ci sono altri metodi per diagnosticare tumori al seno allo stadio iniziale. Oltre all'esame fisico, all'autoesame, all'automassaggio, all'esame fatto dalla ginecologa, la termografia e l'ecografia sono analisi sicure disponibili per le donne che vogliono evitare la mammografia. La termografia dà un'immagine delle zone di calore del seno, i tumori sono più caldi dei tessuti circostanti. L'ecografia ne misura la densità, i tumori sono più densi dei tessuti circostanti. Per cui, continua Susan Weed, se hai già fatto una mammografia e ti senti preoccupata per tutto ciò che stiamo dicendo, puoi adottare uno stile di vita anticancro, per esempio fatti una zuppa di lenticchie, di alghe e di carote. Le lenticchie per riportare alla normalità gli eventuali danni del DNA, le alghe per rimuovere gli isotopi radioattivi e le carote per sostenere il tuo sistema immunitario. Condisci tutto con miso e tamari per fermare l'eventuale avanzamento delle cellule cancerogene, timo, rosmarino ed aglio per un ulteriore rafforzamento del sistema immunitario. Respira, rilassati e non ti preoccupare. Uno stile di vita anticancro non è un insieme rigido di regole da seguire, ma uno spazio sicuro da riempire con i tuoi modi preferiti di nutrire la salute e scoraggiare il cancro. Io includo i seguenti elementi nel mio stile di vita anticancro. Continua Susan Weed. Stare a contatto con i miei propri ritmi giornalieri e stagionali. Dormire al buio totale o alla luce della luna. Andare al sole di giorno. Mangiare un pasto al giorno alla stessa ora. Avere una valvola di sfogo emotiva. Scegliere amiche che mi sostengano e sostengano ciò in cui credo. Avere una valvola di sfogo artistica. Ricevere molti apprezzamenti e approvazioni, ovvero amore. Fare esercizio fisico per un'ora, 3 volte a settimana. Farsi fare un massaggio una volta al mese o più. Fare i miei esercizi di yoga una volta a settimana o più. Avere una valvola di sfogo sessuale. Concedersi un momento di tranquillità ogni giorno. Fare pieno uso di tutte le fonti di gioia a me disponibili. Mangiare basandomi su una dieta mediterranea, composta di cibo per lo più biologico, che includa l'uso quotidiano di una verdura della famiglia dei cavoli, verdure crude e cotte, farine integrali, legumi, semi di girasole, soia e derivati della soia, olio extravergine di oliva, aglio, frutta fresca di stagione, alghe, yogurt e formaggio, erbe antiossidanti. Inoltre, come minimo 4 volte al mese, mangiare frutti di mare, noci, funghi, frutta secca e uova, mentre meno di 4 volte al mese, carne, alcol, zucchero bianco e caffè. Evitare integratori di vitamine e minerali, cloro e varechina, nitrati, tabacco, ormoni, televisione, farine bianche, cibi conservati e prodotti animali non biologici. Come concludere questo spazio se non tornando all'articolo di Peggy Orenstein? Invece di affermare senza ombra di dubbio che una mammografia salva la vita, le attiviste potrebbero usare uno slogan diverso. La mammografia presenta vantaggi e svantaggi, per questo è una decisione personale. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to do.